9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, buongiorno, buon venerdì 3 giugno, buon post festa della Repubblica. Spero che molti di voi lavorino comunque, ma so con certezza che molti di voi invece sono nel ponte e quindi nell'incertezza se stiate lavorando o non stiate lavorando. Abbiamo scelto un tema che, per così dire, a cavallo tra il lavoro e il tempo successivo al lavoro, dove per tempo successivo al lavoro non è il tempo della vacanza alla quale colpevolmente vi state in questi giorni dedicando. Sto scherzando, come è ovvio, per ironizzare, visto che noi siamo qua in diretta a fare il nostro mestiere, ma il tempo successivo al lavoro nella vita, nell'arco della vita, e il tempo classicamente dedicato alla pensione per chi ha lavorato. E allora abbiamo scelto, in questo giorno un po' particolare, dedicare la puntata a un tema, quello della previdenza, perché a seguito dei dati rilasciati dall'ultima audizione di dati rilasciati dall'INPS in Parlamento, c'è una stratigrafia della realtà previdenziale del nostro paese oggi che ci consegna una fotografia sulla quale molto riflettere, per così dire. Noi siamo reduci da moltissimi anni in cui nel dibattito pubblico il problema della previdenza italiana, giustissimamente, io sono stato tra quelli, è stato affrontato innanzitutto dal punto di vista della sostenibilità per la finanza pubblica, visto questi 14, 15, 16 punti di PIL che ogni anno ci costava e continua a costarci la previdenza e che erano da stabilizzare. Si sono varati diversi interventi per stabilizzarli anche da parte di questo ultimo governo, dopo la prima riforma Dini che ha mutato il nostro sistema facendolo diventare da retributivo a ripartizione contributivo, a capitalizzazione, in un regime temporale di tempo troppo lungo, secondo me, rispetto all'esperienza di altri paesi come la Svezia, che hanno avuto invece, secondo me, l'accortezza di concentrare il passaggio da un sistema all'altro in un lasso temporale più ristretto. Noi lo abbiamo molto diluito per allentarne l'impatto sociale tra le cinture dei lavoratori che erano impostate su un sistema che dava tassi di copertura rispetto alle ultime retribuzioni molto elevate, a invece la piena attuazione del sistema contributivo che darà tassi di sostituzione, cioè di proporzionalmente sulle ultime retribuzioni, molto molto molto più basse, cioè non il 90-80%, ma 50, talvolta persino più basse, e lo abbiamo diluito in un arco temporale lungo. È rimasto negli anni il problema della sostenibilità del sistema previdenziale, con coefficienti che poi sono diventati i coefficienti automatici di aggiornamento sui montanti e sul rendimento, quindi dei rapporti che di volta in volta vanno a regime di anno in anno rispetto alle attese di vita. Questi sono stati gli interventi fatti dall'ultimo governo. Ma invece questa volta noi parliamo della fotografia delle pensioni oggi in Italia. Ecco, su questa fotografia noi chiediamo innanzitutto una riflessione da due osservatori diversi. Abbiamo con noi Vera Lamonica, che è segretaria confederale della CGIL, buongiorno e grazie. Buongiorno. E abbiamo con noi Giuliano Cazzola, che è vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera per il PDL. Buongiorno onorevole Cazzola. Buongiorno, buongiorno. Allora, il mio punto di vista ovviamente è che quando continuiamo ad avere un sistema per effetto del lungo dilazionamento dell'entrata in vigore della riforma Dini e quindi di un progressivo innalzamento dell'età pensionabile, lento e poi accentuato per provvedimenti successivi, ma in cui continuiamo per esempio nel solo anno scorso ad avere più di 170.000 nuovi rapporti previdenziali posti in essere per pensioni di anzianità, perché sono maturati gli scatti delle finestre, per cui gente che è andata in pensione tra i 58 e i 59 anni, in effetti la mia opinione, e lo dico come provocazione chiedendo a Vera Lamonica, è che una delle possibilità per innalzare di un po', mi rendo conto, la montata dei rapporti previdenziali nel prossimo futuro, sarebbe quello di accettare l'idea che noi dobbiamo lavorare molti, molti, molti più anni. Però so che non è questa l'impostazione del sindacato e tantomeno della CGIL. Quindi chiedo a Vera Lamonica, rispetto a questa stratigrafia dei rapporti previdenziali e del loro importo reale, la vostra osservazione è il come in qualche maniera tentare nel breve e nel medio termine di innalzare questi importi senza mettere a ulteriore rischio la sostenibilità e il peso sui trasferimenti pubblici che sono dovuti all'INPS, perché è vero che l'INPS è inattivo finanziario dalla parte di conto economico, però è vero che continua ad avere una settantina di miliardi di euro per il resto delle cose che fa da parte dello Stato, cioè dal contribuente. Ecco, da parte vostra, questa fotografia che considerazioni ha indotto e che rimedi proporreste? Beh, noi abbiamo un doppio tipo di problemi. Da una parte i pensionati in essere, come diceva lei precedentemente, i dati ci dicono che metà dei pensionati vive con 500 euro al mese, poi possiamo fare tutta la lettura dentro questo dato che lei giustamente accennava, però insomma il grosso è questo, e questo dato è particolarmente difficile per le donne, no? Che hanno appunto l'entità di trattamenti più bassi nella percentuale che lei accennava prima, e questo è un tema relativo alle pensioni in essere e che ci pone il grande problema di come, ripartendo, avendo voglia di ripartire sui temi della crescita, proviamo a intervenire su questo. Allora qui bisognerebbe ragionare innanzitutto di come si riprende una valutazione sul sistema di rivalutazione delle pensioni, così come si affronta la questione del peso del fisco anche sulle pensioni in essere. Questo è un tema. L'altro tema che ci si apre in maniera enorme, io credo, in questo paese, in questo momento, sono le prospettive dei futuri pensionati, perché noi abbiamo, sono profondamente d'accordo con lei, oramai raggiunto la sostenibilità finanziaria del sistema. Questo non lo dice la CGIL, lo dicono ovviamente tutti gli istituti di valutazione sul tema. Abbiamo raggiunto la piena sostenibilità finanziaria per effetto di tutto quello che si è fatto in questi anni, adesso risparmiamo i giudizi, certo, su quello che è fatto bene, quello che è fatto male. Comunque la stratificazione degli interventi che c'è stata in questi anni ha prodotto una situazione per cui il sistema si può dire in salvo dal punto di vista della sostenibilità finanziaria. Allora noi riflettiamo innanzitutto su due temi. Il primo è che se il sistema è al sicuro dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, non ci aspettiamo altri interventi per fare cassa, diciamola così, sul sistema previdenziale pubblico italiano. Dall'altro invece bisogna riaprire la discussione sulla previdenza per quanto riguarda l'adeguatezza dei trattamenti futuri e quindi la sostenibilità sociale di questo sistema, perché chi andrà in pensione totalmente col sistema contributivo, e già in tanta parte chi ci va col sistema misto, si troverà di fronte a trattamenti che rischiano di sfiorare la soglia al di sotto della povertà, dalle proiezioni fatte oramai da tutti gli istituti, e noi potremmo avere una situazione da qui a 10, 15 anni, 20 anni con gente che va in pensione anche al di sotto del 40%, quindi con un tasso di sostituzione assolutamente basso e insostenibile. Allora, a riaprire la discussione su questo, noi pensiamo possa comportare una ricerca comune e una riflessione, insomma, del sistema paese su quali correttivi apportare rispetto a questa previsione. Ce ne possono essere di tanti. Noi partiamo da un impegno assunto nel 2007 con il famoso protocollo welfare, poi tradotto peraltro in una legge, il protocollo che prevedeva di trovare tutti quei meccanismi a partire dalla revisione dei coefficienti di trasformazione per arrivare a garantire quantomeno il 60% dell'ultimo trattamento salariale. Però questi sono i meccanismi che si possono individuare. Il tema qual è? Il tema è che il sistema contributivo inevitabilmente, necessariamente, è lo specchio del mercato del lavoro, cioè è lo specchio della situazione che in essere che hai nei rapporti di lavoro. Certo. E noi abbiamo un dilagare della precarietà, abbiamo redditi discontinui, abbiamo carriere discontinue, abbiamo redditi molto bassi da lavoro, quindi non stiamo parlando di un problema che riguarderà, come dire, poche persone, ma di un problema che rischia di riguardare una fascia amplissima di popolazione. In più vorrei ricordare che la dinamica di costruzione poi dei rendimenti pensionistici è anche basata sull'andamento del PIL, naturalmente, certo, perché potremmo dire che il sistema contributivo, diciamo, per sua natura riflette innanzitutto il mercato del lavoro, poi abbiamo basato la valutazione sull'andamento del PIL, e per esempio l'andamento negativo del PIL che abbiamo avuto è di pochissimo sopra lo zero che noi abbiamo, rischia di essere un altro elemento che incide. Ecco, il punto sarebbe aprire la discussione su questo, reintrodurre elementi di equità e solidarietà all'interno del sistema. Oh, c'è anche una parte a cui lei aveva accennato, ma le chiedo se ho capito bene in che cosa si potrebbe tradurre, invece, al di là della revisione dei coefficienti e del tasso di sostituzione, ma che riguarda la parte fiscale, il peso fiscale sui trattamenti in essere oggi, sui quali per voi bisognerebbe agire, e come? Beh, ma io facevo riferimento giustamente all'osservazione che lei giustamente faceva su come si riparte con la crescita e quindi su, sì, come si rifanno ripartire i consumi interni. Non è da oggi che noi proponiamo il grande tema di come si abbassa la pressione fiscale sui redditi da lavoro, da pensione e persino da impresa. Noi pensiamo che vada innanzitutto condotta con ancora più forza e decisione la lotta all'evasione, perché è il grande tema del paese, del nostro debito pubblico, e d'altra parte pensiamo che bisogna spostare un po' il peso del fisco su chi più ha, sulle grandi ricchezze, sui patrimoni. E quindi in questo quadro anche meno fisco, oltre che per lavoro dipendente, anche giustamente per i pensionati. Allora chiedo a Giuliano Cazzola, rispetto a questo trittico di posizione, fisco intanto sul breve, poi rimettere mano ai coefficienti per il tasso di sostituzione e così via, le sue osservazioni rispetto alla stratigrafia attuale consegnataci dall'Istat, dall'Inps, mi scusi, quali sono, onorevole Cazzola? Ma guardi, io credo innanzitutto che i dati bisogna leggerli un pochino meglio rispetto a come sono rappresentati dall'INPS, e poi faccio notare per esempio che noi parliamo di persone che sono con retributivo, esatto, quindi persone in buona sostanza che dimostrano che il lavoro precario, il lavoro stagionale, il lavoro modesto è sempre esistito, che non è purtroppo questa la prerogativa soltanto dei giovani, perché se noi in Italia abbiamo nel sistema INPS, solo nel sistema INPS, 4 milioni di pensioni integrate al minimo, beh, vuol dire in buona sostanza che anche le generazioni che sono andate in pensione negli anni scorsi hanno avuto dei problemi per quanto riguarda lo stare a certe condizioni sul mercato del lavoro, per cui non è che c'è un mondo idilliaco che finisce col retributivo e ne comincia un inferno con il contributivo. Questi dati dimostrano sostanzialmente che quando la prestazione di lavoro, quando la storia lavorativa è una storia modesta, è una storia intervallata da interruzioni, il trattamento pensionistico, anche il contributivo, è un trattamento pensionistico modesto. L'altra cosa da dire è che noi non possiamo fare la somma di tutte le pensioni, mettere insieme la vecchiaia e anzianità, che è una pensione che ha una storia contributiva lunga, no? Quantomeno per 35 anni se è anzianità, 20 anni se è vecchiaia, magari con i superstiti. Nel dato dei 500 euro mensili ci sono dentro per esempio anche le pensioni superstiti, che sono pensioni dimezzate in Italia come dappertutto. Certo. Un'altra cosa, per esempio, un altro errore che i giornali hanno fatto è stato quello dei parasubordinati. Sono usciti dicendo i collaboratori prendono pensione da 100 euro al mese, quando nessun giovane collaboratore iscritto alla gestione separata è andato ancora in pensione, perché quella cassa è stata istituita nel 96, quindi nessuno iscritto nel 96 è ancora andato in pensione. Certo. Quelli che prendono la pensione di gestione separata sono dei vecchietti come me, che magari per certe loro attività o perché scrivono degli articoli oppure perché sono andati in pensione e poi hanno fatto un contratto di collaborazione con un'altra ditta, quindi sono stati iscritti alla gestione separata e ovviamente sono posizioni assolutamente precarie, per cui è normale che si tratti di pensioni supplementari con poche decine di euro, ma si dice che i giovani prenderanno pensioni da 100 euro quando non è vero. Ecco, che poi si tratti di fare delle cose mi pare abbastanza evidente. Io per esempio penso che nel sistema contributivo, ho presentato anche un progetto di legge in tal senso, debbono essere introdotti elementi di solidarietà che oggi non ci sono, tipo per esempio un'integrazione al minimo, un sistema di integrazione al minimo o di pensione di base, finanziata dal fisco. Questo per cogliere quelle situazioni di debolezza lavorativa che ci saranno probabilmente di più nel contributivo, come ci sono state anche, lo dimostrano i dati, nel retributivo. L'altra cosa da tenere in considerazione è che in Italia l'INPS eroga 16 circa milioni di pensioni, ma i pensionati dell'INPS sono 13 milioni. Sì. Quindi insomma ci sono 3 milioni di pensioni che si redistribuiscono, quindi non possiamo confondere pensioni e pensionati. Poi ecco, per guardare l'importo della pensione dobbiamo guardare anche l'importo degli stipendi. Uno stipendio da 1200 euro lordo, beh insomma è chiaro che corrisponde a una pensione di bassi e pensioni elevate. Certo. E quindi bisogna anche cercare di non fare del terrorismo in buona sostanza. Però ecco, in generale, rispetto al problema dell'integrazione dei rapporti in essere oggi, mi pare di capire la riflessione di Cazzola sia: bisogna mettere mano per aggiungere qualcosa al contributivo quando entra sì, in pieno regime per l'integrazione al minimo dei rapporti. Bisogna introdurre, esatto, un elemento di solidarietà nel contributivo che non c'è. Ho capito. Ora, a fianco di questa fotografia che continueremo ad approfondire, c'è un'altra realtà che non è fotografata in questi dati, ma che è una realtà che è stata riportata con grande apprezzabilissimo talento giornalistico all'attenzione di tutti, con un best seller che sta andando fortissimo da 2 mesi in libreria. Il best seller è Sanguisughe, Le pensioni scandalo che ci prosciugano le tasche, è della Mondadori, l'ha scritto Mario Giordano, e questo è un libro che, per chiunque non l'avesse ancora letto, io vi suggerisco di leggere per scandalizzarsi, per incazzarsi, perché il lavoro giornalistico di informazione che Mario Giordano, che ha diretto Studio Aperto, il giornale attualmente dirige l'agenzia News Mediaset, ha realizzato consegnandoci la lista precisa di tutti i rapporti previdenziali più scandalosi della casta italiana. C'è gente che ha pensionato INPS più ricco d'Italia a 90.000 euro al mese, tutti i casi che ci documenta e che sono notissimi alla classe politica di qualunque colore da anni e che pure non vengono rimediati, sono la più sacrosanta incazzatura su questo argomento che tutti i cittadini italiani dovrebbero prendersi per chiedere alla politica di qualunque colore di cessare, di far cessare questo scandalo. Allora, io ho invitato Mario Giordano qui perché da una parte ci sono i problemi dei pensionati come sono, ma dall'altra questa vergogna va testimoniata, e non è una vergogna che non ha colore politico, che va posta alla politica di qualunque colore come un problema da sanare. Allora, ti chiedo innanzitutto, in questo minuto e mezzo che ci separa dalla prima interruzione pubblicitaria, e poi di riprendere per dirci come ti è venuto questo libro, e ricordaci almeno qualcuno dei casi più scandalosi e schifosi che sono ancora in essere. Grazie innanzitutto per essere qui, a Mario Giordano. Grazie a voi e buongiorno a tutti. No, guarda, il libro è venuto proprio perché, come sentivo dire prima, giustamente da Cazzola, è necessario, da onorevole Cazzola, è necessaria una maggiore solidarietà nel sistema contributivo, ma credo che la prima forma di solidarietà necessaria sia quella dell'abolizione dei privilegi, sia per una ragione di contenuto economico, sia anche per una ragione di contenuto morale, che è indegno andare a chiedere ulteriori sacrifici, allungamento dell'età lavorativa, pensioni più basse nel momento in cui esiste una pensione come quella che tu citavi, 90.246 euro al mese pagate dall'INPS, o pensioni dei parlamentari che prendono, c'è un parlamentare che prende la pensione da circa 30 anni avendo fatto un giorno in Parlamento, proclamato parlamentare il 12 maggio 1982, smette di essere parlamentare il 13 maggio 1982, prende 3.108 euro lordi al mese, che sono 1.733 euro netti, quindi oltre 4 volte una pensione minima, per essere stato in Parlamento un giorno. Ci sono le doppie, le triple pensioni, le persone che hanno fatto le più severe riforme pensionistiche italiane, da Giuliano Amato che prende 31.000 euro al mese, a Dini che somma una ricca pensione IRS, una pensione Banca Italia, al vitalizio da senatore arrivando a guadagnare 521.000 euro l'anno. C'è il sistema dei contributi figurativi, per cui i parlamentari non lavorando sommano, no, a carico della collettività, per cui vanno in pensione senza avere mai versato soldi in realtà. Aspetta, ti fermo un secondo, dalle baby pensioni in avanti ricominci, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità e appena torniamo in studio, siccome ti ho interrotto, ricominci esattamente di là. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, avevo interrotto Mario Giordano, abbiamo sentito prima le prime opinioni di Vera Lamonica, la segretaria confederale della CGIL, e dell'onorevole Giuliano Cazzola, intorno alla fotografia, alla stratigrafia delle pensioni come fotografate dall'INPS. L'INPS sono più di 2/3, anzi 3/4 quasi dei rapporti previdenziali in essere nel nostro paese. Ma poi con Mario Giordano, l'autore di Sanguisughe, Mondadori, Le pensioni scandalo che ci prosciugano le tasche, abbiamo iniziato a parlare un secondo di questa cosa obbrobriosa che sono le maxi pensioni della casta di qualunque colore politico, a cui non si pone rimedio. Allora, abbiamo elencato ex premier, ex presidente della Repubblica, parlamentari di un solo giorno. Andiamo un secondo ancora avanti nell'elenco, Mario. Ma guarda, citavi prima le baby pensioni, nel momento in cui si parla di allungare l'età pensionabile fa un certo effetto sapere che ci sono persone che vanno ancora oggi in pensione a 40 anni di età. Accade in Sicilia grazie a una legge regionale, la 104 del 2000, che consente a chiunque dichiari di avere un parente da dover accudire, di andare in pensione con 20 anni le donne, 25 gli uomini, poi con i soliti escamotage, ce n'è uno, un ispettore capo dei forestali, che è andato in pensione con 16 anni di contributi, c'è appunto una dipendente dell'ufficio collocamento di Modica Ragusa che è andata in pensione all'età di 40 anni, c'è il segretario regionale dell'Assemblea regionale, Pier Carmelo Russo, che è andato in pensione a 47 anni, con una pensione peraltro abbondante, circa 10.980 euro lordi, oltre 6.000 euro netti al mese, a 47 anni, 11.000 euro al mese di pensione, e subito dopo è stato nominato assessore all'energia, prima poi all'infrastruttura, poi della regione Sicilia. Ci sono ovviamente le pensioni dei giudici della Corte Costituzionale, che sono oltre 20.000 euro al mese, che si vanno a sommare a tutta un'altra serie di benefit. Ci sono le pensioni della Banca d'Italia, ci sono le pensioni dei consiglieri regionali, perché si fa spesso riferimento ai parlamentari, che è una cosa molto, molto rilevante, ma a questo si aggiungono poi tutti i consiglieri regionali. Nella Puglia nell'estate scorsa i 109 parlamentari in pensione si sono visti, e consiglieri regionali in pensione si sono visti aumentare la pensione di circa 2.000 euro al mese. Quindi la lista è molto, molto lunga. I rimedi? Come si può pensare, oltre che una sana diffusione dell'indignazione dal basso e la speranza che si possa organizzare dal basso qualche protesta anche pubblica per indurre la politica a cambiare marcia? È ovvio che naturalmente la politica direbbe che i diritti acquisiti non si possano toccare, niente di tutto questo si può toccare, ma è proprio così giusto che niente di tutto questo si può toccare a chi ha anche 90.000 euro al mese? No, io trovo di no, nel senso che i diritti acquisiti non si toccano, un principio validissimo per chi ha lavorato, ma se uno prende la pensione di 3.108 euro al mese perché ha fatto un giorno, lo ripeto, un giorno in Parlamento, quello per me non è un diritto acquisito, è un errore acquisito, per cui si deve mettere mano e si deve abolire. Io credo che non ci sia ovviamente una soluzione unica per tutti i problemi, ci sono tanti tipi di soluzioni. Faccio un esempio: la legge la legge che consente oggi in Sicilia di andare in pensione a 40 anni deve essere abolita. Se la Sicilia non abolisce, bisogna intervenire sul fondo di solidarietà per impedire che almeno tutto questo poi gravi sulle casse nazionali. Le leggi sulle pensioni dei parlamentari già sono cambiate, perché oggi non è più possibile andare in pensione con un giorno, ci vogliono 5 anni, ma forse occorre un'ulteriore riflessione anche su questo tipo di pensioni. Occorrono molti interventi mirati e diversi. Sulle pensioni da 90.000 euro, queste nascono per il fatto che sono entrate all'interno degli INPS dei fondi speciali, fondi telefonici, fondi bancari, eccetera, che hanno mantenuto, entrando nel grande carrozzone dell'INPS, i privilegi che avevano in precedenza, quando erano fondi giovani e si potevano permettere alcuni lussi, per esempio non avere un tetto alla pensione, per esempio avere molte agevolazioni. Nel momento in cui entrano nel grande carrozzone dell'INPS, invece portano tutto il loro debito che si accolla poi sulle spalle del grande corpaccione collettivo. Ecco, secondo me questa grande complessità, questa grande giungla previdenziale andrebbe di privilegi che stanno all'interno dell'INPS, andrebbe disboscata caso per caso, legge per legge, privilegio per privilegio. Anche perché poi naturalmente i fondi che all'interno dell'INPS poi sono in gestione deficitaria per via anche dei tassi di rendimento che hanno garantito eccetera eccetera, devono attingere da altri fondi, ed è una delle ragioni per le quali poi per esempio alla gestione speciale, cioè attualmente a quei parasubordinati o contratti a tempo di vario tipo che citava Cazzola, non sono ancora andati in pensione, ma noi abbiamo alzato i contributi anche poi perché c'è un problema di alcune gestioni invece che vanno appianate. Posso chiedere a Vera La Monica qual è l'opinione intorno a questo tipo di scandalo di rapporti previdenziali in essere? Voi che cosa proporreste come CGIL di fare? Ah, ma noi siamo indignati dalle tante ingiustizie e siamo assolutamente disponibili ad affrontare qualunque forma di sottrazione di privilegi. Mi pare peraltro che nella gestione INPS, per esempio, noi addirittura abbiamo forme di solidarietà al contrario, se vogliamo dirlo esatto. Così. Per esempio col fondo per i lavoratori dipendenti si contribuisce ad alimentare e a tenere in pari per esempio il fondo per i dirigenti d'azienda. Ma lo dico non perché si tratta, anzi il punto è su questo sono molto d'accordo con l'onorevole Cazzola, il tema è proprio reinserire solidarietà, ma anche riprendere quel principio della legge situazione del 95, in base alla quale del 93-95, cioè della prima fase di riforma del sistema previdenziale, con le quali si tentò esattamente questo, si tentò di equiparare, diciamo così, di riportare a coerenza tutte le forme, quindi di riportare anche elementi, come dire, oltre che di solidarietà e di equilibrio interno al sistema, anche forme per cui si doveva procedere gradualmente a riequilibrare tutto, no? Cioè a tenere tutto in un equilibrio. Ecco, è questa discussione che andrebbe ripresa, e andrebbe ripresa per vedere come si fa concretamente, anche perché adesso noi io ripeto, dobbiamo distinguere i due temi, le pensioni in essere e quello che avverrà col retributivo. Certo. Ha ragione l'onorevole Cazzola, è chiaro che chi è andato in pensione, chi è in pensione adesso sotto i 500 euro, lo è perché viene da carriere discontinue, fragili, comunque da lavori poveri, e questo è naturalmente vero, anche se questo, per la verità, come dire, dovrebbe togliere dal tavolo quella falsa discussione che sempre c'è su questo tema, relativa, diciamo, alla ricchezza dei padri rispetto alla povertà dei figli. Purtroppo qui sono poveri anche i padri, diciamola così, alcuni padri, il grosso dei padri, fatte salve appunto le situazioni di cui parlava prima il dottor Giordano, e che esistono e che sono ovviamente uno scandalo. Io direi che il sistema contributivo oramai è un'acquisizione della legislazione italiana, nessuno lo deve rimettere in discussione, non è quello il punto è di reintrodurre elementi di solidarietà, come si diceva, di equità, anche di razionalità. La Monica, io nella successivo giro le chiedo se c'è una possibilità, quindi le chiedo, la fermo adesso perché le chiederò poi in un'altra domanda se c'è una possibilità, una specie di trade-off, per cui l'inserimento di quello si può fare con un ragionamento complessivo poi anche su cambiamenti del mercato lavoro rispetto a come funziona oggi. Intanto mi interessava però restare su la denuncia del libro Sanguisughe di Mario Giordano, per chiedere anche a Cazzola, da un punto di vista liberale, però il punto di vista liberale può rimanere inerte di fronte ai tantissimi trattamenti privilegiati che a qualunque livello nel settore pubblico restano? Non sarebbe necessaria un'iniziativa straordinaria che, dico, vada al di là del fatto che poi in ogni finanziario, una finanziaria sì, una finanziaria no, il ministro dell'economia è costretto a tentare di dare un giro di vite ai costi della politica, e regolarmente poi il giro di vite finisce iperattutito, come puntualmente è avvenuto anche nell'ultima legislatura? Io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che, per esempio, i dipendenti della Banca d'Italia, dipendenti di qualunque qualifica, ordine e grado, fino ai dirigenti, hanno impugnato l'attuazione della limitazione della parte elevata delle retribuzioni adottata in finanziaria dopo che era stata proposta da Giulio Tremonti e approvata dalla maggioranza lo scorso mese di luglio, quasi un anno fa, sostenendo che i dipendenti della Banca d'Italia non fanno parte del recinto del pubblico impiego a tutti gli effetti. Ecco, allora, è ovvio che stiamo parlando di un'istituzione che siamo tutti abituati a rispettare, ma vi faccio l'esempio apposta della Banca d'Italia per dire di come si attutiscano questi interventi. La domanda che ha fatto Giuliano Cazzola è questo: da liberale non bisognerebbe introdurre una specie di sessione speciale per cui si adotta un provvedimento per il quale si ripristino per tutti questi trattamenti privilegiati del settore pubblico di qualunque ordine e grado 3, 4, 5 misure secche che incidano anche sui rapporti in essere? Come la pensa? Ma guardi, io non credo che ci siano le possibilità giuridiche per fare una misura di questo genere. Questi si rivolgono a un giudice. Si può fare per esempio sulla rivalutazione, per esempio si può stabilire che la rivalutazione è una rivalutazione peggiore di quella di oggi, però tenga conto che la Corte Costituzionale, per esempio, si è sempre pronunciata a favore di misure transitorie che andavano per un periodo ma non in termini definitivi. Però, per esempio, io credo si possa stabilire una forma di rivalutazione che penalizzi le pensioni più elevate, altrimenti credo che sia abbastanza difficile chiunque si quindi rivolga. Ci sono e ce le teniamo, in buona sostanza. Secondo me, se sono state fatte sulla base di regole vigenti, ci sono. Naturalmente, lei capisce bene che su questa base il politico, non dico i parlamentari che sono più sotto il fuoco dell'attenzione, infatti hanno dovuto rimediare alla faccenda che bastava un giorno, ma nelle assemblee regionali, soprattutto in alcune regioni, a quel punto la certezza che una volta votata la legge così resta spinge e induce, se possibile, ad abbassare ulteriormente le soglie, non ad alzarle. Guardi, io adesso le porto degli altri dati. Per esempio, Giordano ha parlato del fondo degli elettrici e dei telefonici. Bene, il governo ha introdotto una misura che a questi lavoratori, ai fondi telefonici, ai fondi elettrici, non agli iscritti, gli fa pagare la ricongiunzione, gli fa, se ha dei periodi con altri fondi, gli fa pagare la ricongiunzione, batoste abbastanza considerevoli, abbastanza note. Queste sono persone ovviamente che pensavano di non avere questo problema, invece per andare in pensione se lo trovano. Ecco, su questo per esempio i sindacati, giustamente i sindacati degli elettrici telefonici hanno sollevato la questione, quindi vede che poi è facile parlare di privilegi, ma quando poi ci toccano i privilegi ci sono poi delle reazioni. Un'altra cosa, per esempio, perché i sindacati hanno detto no, la congiunzione no. C'è una grandissima pressione, per esempio, anche da parte della sinistra, anche solo, poi ce ne facciamo un pochino carico tutti di questa cosa, perché per esempio con questa misura rischia di saltare l'accordo Telecom, perché l'accordo dei prepensionamenti. Però ecco, vede, qui con una ricongiunzione onerosa si poteva fare un pochino di giustizia all'interno di un settore che comunque ha un privilegio rispetto al resto degli altri lavoratori dipendenti, però su questo... E io la interrompo proprio qua, perché dobbiamo adesso dare informazioni sulla circolazione stradale, perché l'esempio dell'accordo Telecom che salta o si mette a rischio nel caso in cui si mette a carico del fondo la ricongiunzione è un esempio, secondo me, di come il ragionamento di un riequilibrio, anche del trattamento introducendo elementi di solidarietà, come ha detto Cassola e come naturalmente Vera la Monica, segretaria confederale della CGIL, è d'accordo, secondo me ci conduca anche a un'altra riflessione, se non sia il caso di collegare questo aspetto a una modifica complessiva anche un po' del mercato del lavoro. Però adesso andiamo con le informazioni sulle strade e ripartiamo poi da Giordano, perché voglio chiedergli un'ultima cosa e poi facciamo l'ultimo giro con la Monica Cazzola. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte, che sarà più breve. Ricomincio da Mario Giordano. Leggete, comprate sanguisuga, le pensioni scandalo che ci prosciugano le tasche, così vi incazzerete un po', ma è meglio sempre sapere da cittadini che cosa ci si trova a fianco, soprattutto da parte di chi ha ricoperto incarichi pubblici o comunque è stato giudice, è stato alla testa di enti pubblici e così via. È meglio sempre saperlo, così ci si può arrabbiare. Giordano, il libro è stato un grande successo. Possiamo dire che però l'informazione c'è anche forse una colpa, nel senso che questi aspetti li scopre solo quando ci sono le finanziarie, eccetera, eccetera. Come mai siamo così, non dico come giornalisti, tu te ne sei occupato, sei al di fuori di questa accusa, però io ho un po' l'impressione che alla fine tendiamo sempre a occuparci della sostenibilità partendo da chi sta in basso e un po' meno in realtà del problema di chi nell'ombra si assicura rapporti di questo tipo e che certo non contribuiscono alla sostenibilità generale del sistema. Siamo troppo proclivi a tenere buoni potenti noi giornalisti, secondo te? Assolutamente sì, io sono assolutamente convinto che pur avendo visto nell'ultimo periodo un successo di libri, anche di denunce sui corsi della politica, la tendenza del giornalista sia sempre quella un po' di essere molto più vicino ai soggetti che dovrebbe raccontare e denunciare che non alla gente a cui dovrebbe raccontare le cose. Però sono anche convinto che, non so se è vero come diceva adesso l'onorevole Cazzola, che non ci siano gli strumenti, però io credo che, come dicevo prima, sia per una ragione economica, perché solo per le pensioni parlamentari ogni anno il bilancio del Parlamento costa la differenza fra i contributi versati dai parlamentari, che sono 15 milioni di euro, e le spese, che sono 219 milioni di euro, sono 204 milioni di euro, che quindi non sono poche. Se si commenta tutti, da solo. Esatto, tutti i consigli regionali, quindi c'è anche un valore economico. Spesso si liquida il problema dicendo ma sono incidono poco sul totale della monta. Invece non è vero, i costi della politica alla fine incidono molto, perché poi i parlamentari ci mettiamo il commesso del Senato, tutti quelli assunti prima del 2007, praticamente tutti, si applica ancora al sistema retributivo, più vantaggioso anziché il contributivo, e possono andare in pensione fino a qualche tempo fa a 50 anni, adesso 57 anni, che comunque 4 anni meno rispetto ai minatori e fuochisti degli altoforni. 57 anni, 50 anni è l'età in cui Sharon Stone fa ancora le copertine, il commesso del Senato è in pensione. Quindi tutto questo insieme ha anche un valore economico, però ha anche, come dicevo prima, un alto valore morale. Siccome l'avete detto prima, giustamente, ebbene, bisognerà allungare l'età pensionabile, bisognerà fare sacrifici, bisognerà ancora fare una riforma che va nella direzione giusta, perché è però un elemento di solidarietà in qualche modo rispetto queste cose, bisogna trovare gli strumenti giuridici e legali per fare in modo che un elemento di giustizia, di equità venga introdotto, altrimenti non sono sopportabili, non si può continuare a chiedere sacrifici ai cittadini. Io la penso, e non credo per questo di essere un illiberale che non rispetta la titolarità dei diritti garantiti da legge, la penso integralmente come Mario Giordano, perché ci sono degli scandali di fronte ai quali la logica formale, che è quella praticamente che ha spinto sempre, come ricordava Cazzarola, la Corte Costituzionale a riconoscere l'estensività dei diritti previdenziali e mai a entrare nel merito. Noi abbiamo avuto negli anni 70-80 una serie di sentenze che su questo hanno aggravato lo sbilancio delle pensioni italiane proprio per questo genere di tipo di sentenze che si studiano, tanto è vero che in diritto costituzionale hanno fatto, per così dire, scuola, no? Sono stati dei tipi di sentenze interpretative estensive che su cui addirittura il diritto costituzionale ne ha codificato un tipo di facoltà della Corte Costituzionale con oneri per il bilancio pubblico che sono stati molto molto pesanti. Ecco, io invece ritengo che bisogna essere in grado di darsi uno stop, e non per questo sentendosi liberali. Grazie quindi a Mario Giordano, e a questo punto la domanda che faccio a Vera La Monica è un'altra. Torniamo alla necessità di agganciare trattamenti previdenziali quando il contributivo pieno entra a regime. Lei ha detto anche rispetto ai trattamenti attuali, però facciamo il pezzo di ragionamento che vi ha accomunato con Cazzola. Quando il contributivo pieno entra a regime, non è forse utile pensare a mettere elementi di maggior solidarietà rispetto a quelli che si vedono oggi, un innalzamento del tasso di sostituzione, per esempio, come propone voi della CGIL, anche affiancandolo a un ragionamento sul mercato del lavoro? Io partivo dall'esempio Telecom. Rispetto al mercato del lavoro attuale, in cui c'è la flessibilità, c'è per così dire nelle forme contrattuali, non c'è in uscita, come sappiamo. Non voglio citare l'articolo, ma non c'è in uscita. Se noi pensiamo a un welfare diverso rispetto a quello attuale, che tende a difendere i posti di lavoro come sono e dove sono, e pensiamo invece a un welfare diverso che tende invece a proteggere il lavoratore dalla perdita del reddito e non del posto di lavoro come e dov'è. La domanda che faccio alla Monica è così sbagliato un ragionamento complessivo in cui vi chieda di ragionare allo stesso tavolo con tutti su un welfare, una riforma del mercato del lavoro di quel tipo, a cui abbiniamo a quel punto anche maggiore solidarietà sulle pensioni? Perché è sbagliato? Perché è unilateralmente aziendalista, secondo voi, questo ragionamento? Ma io spero di aver capito bene la sua domanda, perché adesso si sente molto male, ma io credo che bisogna sicuramente partire dal mercato del lavoro. Il mercato del lavoro, come adesso, produce il disastro sociale che abbiamo sotto gli occhi per i giovani, e non solo per i giovani, per la verità, e produrrà il disastro dei futuri pensionati, per le cose che abbiamo detto prima, andranno in pensione con rendimenti assolutamente improponibili in una società civile. Ora, se bisogna intervenire sul mercato del lavoro, forse uno dei primi problemi che noi abbiamo è intanto il fatto che forse questo nostro paese non ha una vera, autentica copertura di tutti con gli ammortizzatori sociali, che per esempio consentirebbero anche la copertura figurativa dei periodi, quindi garantirebbero a una fascia più ampia di persone, per esempio, di avere un minimo di copertura anche da questo punto di vista. Io penso che bisogna fare le due cose insieme. Io penso che da una parte bisogna provare a riformare, nel senso che abbiamo detto prima, della solidarietà. Chiarissimo. Però non c'è l'indisponibilità a ragionare in maniera congiunta. Non la sento, mi dispiace. No, ho capito, però insomma ho riassunto dicendo che non c'è l'indisponibilità. Chiedo a Cazzola in conclusione, questo ragionamento complessivo, flessibilità nel mercato del lavoro con tutela dalla perdita del reddito e non dal posto di lavoro, e più solidarietà, è pensabile farlo? Oppure, come temo, invece scopriremmo che ci siamo ancora divisi ideologicamente tra sindacati, forze dell'impresa e anche visioni politiche su questo, secondo lei? Guardi, io credo che probabilmente ci sono divisioni sulle soluzioni, no? Io per esempio sono convinto che bisogna trovare anche più flessibilità in uscita, però il ragionamento è condiviso, perché non c'è dubbio che va assicurata una copertura del reddito anche quando la persona non è in condizione di procurarsi con il suo lavoro, che è poi quello che l'articolo, il secondo comma dell'articolo 38 dice, sì. Solo che lo dice solo per il lavoratore dipendente, che ha la tutela del reddito anche quando è invalido, malato, anziano, disoccupato volontario, involontario. Certo. Questi vanno trovato forme, non c'è dubbio, se non lo si è fatto, non lo si è fatto per via dei costi. Poi io sono perché si trovi anche uno strumento solidaristico. Ho parlato di una pensione di base finanziata dal fisco, ho parlato di un permanere dell'integrazione al minimo anche nel sistema contributivo, per venire incontro a quelle persone che col loro lavoro un lavoro riformato anche nel versante degli ammortizzatori sociali, però non sono in condizione di avere un trattamento dignitoso quando vanno in pensione. Allora, la mia conclusione, dopo aver ringraziato, oltre a Mauro Giordano che ci ha già lasciato, Vera La Monica, Giuliano Cazzola, è questa. La stratigrafia consegnataci e reinterpretata in maniera più corretta da Cazzola e le considerazioni fatte dalla segretaria della CGIL sulla necessità di maggiore elemento di solidarietà rispetto al tasso di sostituzioni, io lo abbino alla necessità di un mercato del lavoro in cui si tocca anche l'attuale articolo 18, per essere chiaro, la flessibilità in uscita, con un sistema di tutela per chi oggi non ce l'ha, che però non impedisca le razionalizzazioni e la necessità per le imprese di andare avanti anche modificando le piante organiche. Io penso che a quel punto sarebbe più facile abbinare anche questo intervento di solidarietà rispetto ai trattamenti previdenziali al regime contributivo. È un'illusione riformista e liberale la mia? Non lo so, temo che ci vorrebbe una politica capace di affrontare con grande senso di apertura e di dialogo queste cose, ma in tempi rapidi io penso che si possa fare. Questo è un classico esempio di come mettere a mano a più equilibrio e insieme a più crescita nel nostro paese, perché guardate che un welfare fatto male significa meno investimenti, perché di fronte alla rigidità investire diventa più problematico, perché è più problematico smontare ciò che si è fatto. Noi dobbiamo rapidamente poter smontare ciò che si è fatto se non regge al mercato, senza per questo esporre i lavoratori a questa duplice gabbia per cui il costo delle rigidità sta tutto a carico dei giovani e delle donne dei meridionali. Questa è la tragica realtà di un paese che pensa invece di risolvere il problema dando a tutti i contratti a tempo determinato con le rigidità e i costi attuali. Questo è impensabile per un paese che ha bassa produttività da tanti anni. Questa è la mia ricetta liberale. Un saluto a tutti voi, Linea Generale Radio, ci sentiamo lunedì.